un altro spumeggiante. Buongiorno qui. Bom bom bom, bom. Si vola tantissimo. Buon pomeriggio. Siamo sempre su Radio Wombat, wombatnoblogs.org, ai Frittole Studios, qui in compagnia col Drio. Io in compagnia con il reverendo. Reverendo che ormai, ragazzi, è diventato davvero un campione. Campione dei desk. Dei decibel. Sì, ho piazzato la tenda qua e basta. E oggi ci siamo. Siamo in diretta da Frittole e non dal castello. Salutiamo il gringo e la dama, chiaramente. E poi salutiamo tutto il resto della banda, la Modesta che ci manca tantissimo. Speriamo di rivedervi presto, no? Davvero, davvero, non ce la facciamo più, ci stiamo spremendo le meningi in una maniera incredibile. E non abbiamo più argomenti, non sappiamo quasi più che cosa inventarci. No, e infatti. Insomma, potete aiutarci suggerendoci qualunque cosa di cui vogliate parlare o di cui vogliate discutere. Insomma, ci scrivete a radiocontato@inseberia.net e forse vi leggeremo. Chi lo perché sa? Riceviamo migliaia di mail. Sì, assolutamente. Tutti i mercoledì siamo iper desiderati. Quindi siamo a Frittole, 1400 quasi 1500, oggi è mercoledì, quasi giovedì. Quest'oggi abbiamo un'altra bella puntatona e chiaramente iniziata in ritardo e quindi non sapremo se riusciremo a finirla. Sì, ce la faremo, Doctor. No, ci scusiamo con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici perché in effetti c'era una replichina che durava esattamente un'ora e finiva esattamente alle 2:30, più la carrellata di spottini, più un pezzettino di stacco, insomma, abbiamo lasciato un attimo riposare le orecchie. Comunque oggi, insomma, siamo a continuare a parlare qui in studio e con varie telefonate, parlare di pratiche di resistenza, di pratiche di resistenza a questa situazione. Ma tipo la maratona, a questo sistema opprimente da mascherina. C'era da mettersi mascherato. La mascherina anche prima, reverendo, cioè era tutto marcio. E quindi continuiamo la nostra carrellata di contatti per parlare di comunità in resistenza, comunità che si auto-organizzano. Sì, assolutamente sì, abbiamo una telefonata e mi ha detto che ci sta già ascoltando, per cui... Vabbè, la sorpresa sarà veramente strabiliante. Sì, fra pochi minuti avrete una sorpresona. E poi abbiamo anche un altro contributo già registrato che ci arriva dalle Marche, da Oltremercato, Gas Nomade, per dire della verità. È molto interessante. Poi niente, avremo con noi la solita strabiliante Gineprina con i suoi consigli da strega. La miniera di sapere per tutto quello che riguarda il mondo naturale. E poi per chiudere parleremo anche del primo maggio transfemminista. Insomma, si stanno organizzando un sacco di cose in giro per il mondo. Esatto, comunque, insomma, quindi c'è un bel po' di roba e comunque volevamo iniziare invece un po' a chiacchierare, a parlare un po', diciamo, della nostra comunità di riferimento, no? Insomma, quella che vogliamo anche ricordarlo, che magari a volte sfugge, che si prende anche cura di questa trasmissione, di queste 2 ore di radio contato. Ma stai per caso parlando della comunità di resistenza contadina Jerome Larons. Tu lo sai, esatto, reverendo, sto parlando proprio di quello, ovvero del nodo fiorentino di Genuino Clandestino, nonché delle organizzatrici e gli organizzatori del mercato bellissimo di Piazza Tasso. L'ex mercato che per ora è fermo. Per ora è fermo, purtroppo. Proprio del mercato, proprio con la vicenda del mercato vogliamo iniziare questa puntata pomeridiana. In quanto se avete un po' seguito le tristi vicende del mercato contadino di Piazza Tasso, sapete che è stato bloccato in seguito a tutte le ordinanze di chiusura di ogni cosa. Era riuscito, in quanto mercato alimentare, a superare, diciamo, la prima fase di chiusura, spostandosi da Piazza Tasso a Piazza del Carmine. In quanto Piazza Tasso era stata chiusa come appunto giardino pubblico, e quindi il comune l'aveva chiusa. Piazza del Carmine stava andando tutto abbastanza bene, se non che un po' di settimane fa, insomma, complice una giornata splendida con un bellissimo sole e un botto di gente che si era recata al mercato. Splendide genti, esatto, che erano a farsi una spesa splendida con i prodotti genuini clandestini. Boh, a quanto pare questa cosa ha dato noia a qualcuno, non lo so, è venuto fuori un po' un polverone di, insomma, polemiche varie. Sì, esatto, di aggregamenti esagerati sono venuto fuori anche un paio di giornalate dei soliti, insomma, pennivendoli che ahimè conosciamo bene, e quindi niente, insomma, è stato bloccato anche il mercato in Piazza del Carmine. Ma perché, chiaramente, lo sappiamo tutti, è molto più sicuro farsi 2 ore di fila per andare in un supermercato a fare la spesa, no? Dove trovi sicuramente una merce di una qualità eccellente, priva di veleni, proprio una roba sana, no? Assolutamente. È veramente più sano andare nei supermercati dove c'è la grande distribuzione, che pensa proprio a noi, no? È noto che si prende cura, esatto, del consumatore. Il consumatore è cullato, è coccolato, no? Da questi enormi spazi vuoti come i contenuti delle cose che vendono. Però vabbè, stiamo dilungando. Qualcuno mi ha detto che sono prolisso la settimana scorsa. Non è vero, dottor. Io non sono d'accordo. E invece sì, sono d'accordo con quel qualcuno che è Albus, che salutiamo. In una realtà parallela me l'ha detto, però ecco, non qui a Radio Contatto. Senti, cambiamo tappetino. Comunque, e vai e apprendiamoci. Sì, apprendiamoci a leggere questa fantastica lettera che è stata appunto redatta da Gicci Firenze. E, insomma, l'obiettivo è di mandare questa lettera, farla girare il più possibile. È indirizzata nello specifico al sindaco Nardella, all'assessore Federico Gianassi, al presidente del consiglio di quartiere 1 e, insomma, ai pezzi forti che potrebbero cambiare un attimo le sorti del mercato di Piazza Tasso. E, insomma, c'è un bel riassunto di quella che è l'esperienza. A questi signori che hanno in qualche modo il potere, no? Detengono il potere di decidere che il mercato possa andare avanti o no, vi invitiamo a mandare appunto questa lettera. Potete trovare, insomma, le indicazioni, gli indirizzi email sui social, sul blog di Jerome Larons, e niente, insomma, volevamo giusto leggere questa lettera, che appunto è molto più oggettiva e vi rende un po' l'idea di quella che è un po' la risposta della comunità di resistenza. Vai, doctor. Egregi, vi scrive la comunità contadina che da 2 anni organizza e realizza il piccolo mercato contadino che ogni venerdì pomeriggio fa incontrare i contadini e abitanti del quartiere in Piazza Tasso. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire ai produttori delle campagne limitrofe che praticano un'agricoltura contadina agroecologica uno sbocco per la realizzazione della loro economia e in contemporanea dare agli abitanti del quartiere la possibilità di accedere ad un cibo sano e prodotto localmente. È un ulteriore nostro impegno garantire, nei luoghi di produzione, una corretta impostazione del lavoro dal punto di vista ecologico e sociale. A tal fine abbiamo organizzato in questi anni attività settimanali nel quartiere, come la pratica della garanzia partecipata, che consiste in un meccanismo di controllo, verifica e gestione tra produttori e coproduttori, così chiamiamo i consumatori, che decidono di smettere di consumare entrando in contatto diretto con chi produce il proprio cibo. La garanzia partecipata, attraverso visite programmate, rende partecipi le persone, dando loro la possibilità di conoscere e scoprire luoghi e modalità di produzione. Ciò contribuisce a migliorare il lavoro nei poderi, garantendo in modo comunitario la sicurezza e la qualità alimentare in un clima di cooperazione e mutualismo. Abbiamo tessuto relazioni di conoscenza diretta con molti dei nostri abituali frequentatori, proprio grazie al clima di socialità e benessere che si crea durante i nostri mercati del venerdì. Tutto ciò fa sì che il nostro mercato abbia conquistato la fiducia di molti abitanti del quartiere, che oltre a fare la spesa ne approfittano per trascorrere qualche ora in serenità, sostituendo marchi, bollini e certificazioni con volti, mani e relazioni. Pericolosissime. Sappiamo che tutto ciò in questo momento è rimandato per poter attuare le pratiche previste al fine di assicurare il distanziamento fisico tra le persone ed evitare la proliferazione del virus, quello lì di cui noi non vogliamo nominare, che l'innominato. Tuttavia, essendo impossibile per ovvi motivi impedire l'approvvigionamento alimentare in città, ci sembra dannoso affidarlo esclusivamente alla grande distribuzione organizzata, eliminando i mercati contadini. Occorre precisare che per grande distribuzione organizzata si intendono non solo i supermercati delle grandi catene, ma anche gli stessi mercati e i piccoli negozi che non garantiscono la provenienza locale e agroecologica dei prodotti che commerciano. Per questo in molti, e in aumento, considerano salutare fare la spesa da noi e non si sentono sicuri a comprare il loro cibo dalla catena alimentare industriale. La lettera prosegue dicendo: quando nel crescere della paura e delle restrizioni dovute all'avanzata del Covidio, sono stati chiusi parchi e giardini pubblici, il nostro mercato in Piazza Tasso non è più potuto essere garantito. Abbiamo chiesto e ottenuto lo spostamento in Piazza del Carmine, dove, non essendo un giardino e avendo una superficie molto maggiore di Piazza Tasso, è possibile gestire al meglio il distanziamento fra banchi e persone. Il venerdì 3 aprile diverse concause hanno determinato alcuni problemi che, purtroppo, sono stati ingigantiti da alcuni cittadini e giornali smaniosi di mettere in cattiva luce sia il nostro mercato che l'amministrazione comunale. I presunti assembramenti fuori controllo dei frequentatori del mercato erano infatti più percepiti che reali. Per venire comunque incontro alle preoccupazioni dei cittadini e per assumerci al massimo le nostre responsabilità, abbiamo redatto un nuovo piano della sicurezza che prevede una gestione attenta e adeguata a garantire il necessario distanziamento e il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Nonostante ciò, sì, l'ho detto, l'ho detto. Quasi detto tutto. Mamma mia. Nonostante ciò, non ci è stata concessa nuova autorizzazione per il mercato. Nel quadro della ripresa di molte attività lavorative nei prossimi giorni, chiediamo pertanto e quanto prima la riapertura del mercato contadino di Piazza Tasso o di Piazza del Carmine, nella speranza che anche l'amministrazione comunale sia disponibile, insieme a noi, ad assumersi la responsabilità di trovare una soluzione concreta e immediata per la salute del quartiere. Attendiamo una vostra risposta per poter ripartire con il nostro lavoro e per dare una comunicazione trasparente ai nostri coproduttori. E così si conclude questa lettera scritta appunto dalla comunità di resistenza contadina Jérôme Larons e dall'associazione Altrarno, che sono appunto due soggetti che organizzano il mercato, le due comunità. Quindi insomma il reverendo qui ha preparato una risposta un po', una risposta musicale a tutta questa situazione parecchio assurda, in quanto purtroppo, reverendo, non è solo qui a Firenze che c'è una situazione simile, dove mercati contadini agroecologici vengono stoppati senza un giusto motivo apparente. In quanto, insomma, abbiamo visto nelle scorse settimane con le nostre telefonate alle compagne e compagni di GC un po' in tutta Italia che purtroppo in molti territori assistiamo a una forma di repressione simile, no? Sì, a me sembra emblematico quando Wu Ming, per esempio, scrive che ancora una volta si invocano o introducono obblighi e divieti non per ragioni epidemiologiche, non basandosi su evidenze scientifiche, ma per questioni di spettacolo sociale e controllo dei comportamenti delle persone. Insomma, bisogna far vedere che si soffre, bisogna ostentare la penitenza che gli italiani starebbero scontando. Dovremmo dare il senso di un distanziamento che è qui per rimanere e abituarci all'idea di non avere più contatti ravvicinati. Mi sembra un po' il senso di tutta sta questione. Esatto, quindi insomma vi invitiamo nuovamente ad andare sul blog di Genuino Clandestino, quindi genuinoclandestinofirenze.noblogs.org, e a inviare questa lettera che vi abbiamo letto appunto al sindaco, all'assessore Gianassi e al presidente del quartiere 1. Facciamolo in massa e facciamoglielo sentire, cioè, che è una grande cazzata quella di chiudere il mercato. Ti ringrazio per i francesismi, doctor. Adesso dai, mandiamo una chicca. Bestemmio e ritorna il buon umore ogni volta che con gioia nomino il Signore. Bestemmio, il buio svanisce e la luce ritorna ogni volta che con stile descrivo la Madonna. C'è chi se la prende con i neri, coi terroni o coi rumeni, tutti ce l'hanno sempre con qualcuno. Io bestemmio e non mi pento, faccio solo quel che sento, è uno sfogo non violento che in fondo non fa male a nessuno. Quindi bestemmio con parole brutali da lasciare sconvolti i comuni mortali. Bestemmio, anche se mi dicono mi dà soddisfazione. Non vi impuntate col difendere le vostre ideologie banali, se vi impegnate molto meno a difendere gli umani, i depressi, gli ammalati, i diritti calpestati, e poi tirate fuori i denti quando vi toccano i santi. Bestemmio, bestemmio forte, e la gente si incazza, ma per le bestemmie del governo nessuno scende in piazza. Quindi bestemmio, e se la gioia non ritorna, è comunque una terapia bestiale rinominare la Madonna. Quando c'ho i coglioni rotti non mi importa dei bigotti, se lo so che andrò all'inferno e che ci passerò l'eterno, e tu cristiano che mi ascolti so che ti girano i coglioni, però se sei vero cristiano ti calmi e mi perdoni. Eccoci, eccoci tornati in studio, e come vi abbiamo promesso all'inizio della trasmissione abbiamo una grossa sorpresa, più per noi che per voi che vabbè siete collegati in radio, però qui per noi in carne e ossa a Frittole ci ha raggiunto la dama! Ciao a tutti! Io sono emozionatissima, ragazzi, cioè, ormai è due mesi che mi sembrano 2 anni che manco da questo studio e soprattutto da voi. Ma come si fa a vivere così, che ragazzi? Infatti è durissima. La mia fortuna è che, avendo riaperto alla questione degli orti, c'ho una vigna casualmente in gestione proprio qua vicinissima a voi. Ti tocca arrivare a Frittole così... a nuoto. E mi tocca arrivare a Frittole così, a nuoto. Sono un po' agitata, ecco, tutta questa emozione. Noi abbiamo letto lentissimamente la lettera per permetterti di arrivare in studio senza fare le corse, però... Scusate, io purtroppo è così, in questo smart working, come si chiama? Telelavoro da casa. Lavoro intelligente. L'inculata è che io sono sempre reperibile e soprattutto non ricevo mai telefonate tranne quando devo uscire, no? Mi sembra ovvio. E per ovvi motivi poi devo fermarmi, essere un po' presente. Però eccomi qua, ce l'ho fatta, sono arrivata e sono veramente felicissima di essere qua. Infatti, con voi. Infatti applausi. Mamma mia. Ma lettera, voi avete letto, ecco, la lettera, sì. Insomma, che come comunità abbiamo scritto. Ecco, però siccome io e il reverendo siamo un po' dei cani sciolti e all'assemblea non ci andiamo... E quindi volevamo sapere un po' da te, più che sei dentro, più di noi alla comunità. Siete dei pigroni, esatto. Anche perché ultimamente all'assemblea non serve neanche andare, basta, esatto, fare un click e come tutti si fanno queste grandi e pallosissime con tutti i mezzi possibili, poi cambiano tutte le volte per vedere qual è il più sicuro, qual è il più leggero, qual è quello che reggono tutti. Sì, sì, tutte comunque, le strategie varie. Come comunità, essendo comunque una comunità praticamente diffusa, perché siamo tutti molto lontani, quello che insomma ci accomunava era almeno vederci di fisso alle assemblee, al mercato, in piazza. Adesso non viene neanche più il mercato e quindi ci si sente solo alle assemblee, perché poi per motivi tecnici e tecnologici abbiamo abolito i video, ma dice solo l'audio, sennò chi è troppo in campagna non riesce a presenziare. E in questo periodo, insomma, le nostre assemblee sono state molto faticose, però avevamo, insomma, almeno questa cosa di avere il mercato, no? Quindi sì. magari non tutti, perché al mercato poi possono partecipare solo i produttori, quelli veri, in questo momento, magari i responsabili della sicurezza, così che è stato denominato, che ci ha aiutato. Però avevamo questa certezza di essere comunque presenti, di poter continuare a lavorare, vendere, di poter comunque continuare a fare controinformazione, ed essere un punto di riferimento sul quartiere. Poi tac, hanno chiuso Piazza Tasso, ma fortunatamente, visto insomma che è sempre stato un mercato valido, ci hanno concesso di spostarci in Piazza del Carmine, non di loro iniziativa, nel senso, una volta è stato chiuso Piazza Tasso abbiamo chiesto noi, certo, se c'era un'altra piazza, è stato così. E in Piazza del Carmine cosa è successo? La prima volta era una giornata un po' uggiosina, tutto bene, la seconda volta insomma, come ben scritto l'ha comunicato, sì che abbiamo, purtroppo abbiamo parlato anche c'era prima, un po' più di movimento in giro. Dal nostro punto di vista forse non eravamo preparatissimi, ma abbiamo gestito discretamente, nel senso che comunque eravamo dotati di tutte le norme cautelari, sono passate anche due volte insomma i vigili a controllo. Sì, esatto, la cosa, che poi la cosa assurda è anche quella, riportata fra l'altro da uno dei due articoli che poi hanno contribuito a fare il polverone, no? Che lo stesso pomeriggio insomma, i vigili o comunque le forze dell'ordine sono passate più volte in piazza e non hanno rilevato problemi, no? Non hanno fatto molto. O... Ma infatti quindi il problema di fatto, ecco, se non, cioè... non sono i vigili in sé per sé, ma è il poliziotto interiore, come esatto, direbbe Augusto Boano, Paolo Freire, che vige in tutti noi, o meglio negli altri, perché me grazie a Dio ancora no, e sono sicuro anche in nessuno di voi. Però purtroppo in tantissime persone vige il poliziotto interiore, e oggettivamente è anche vero che la realtà è interpretabile, nel senso che comunque, visto magari da un balcone, da una finestra o da un'angolatura, può sembrare che per il deserto tartarico che c'è in questi giorni ci possa essere anche abbastanza gente. L'unica cosa più semplice era che chi si sentiva così poliziotto interiore poteva benissimo scendere e far notare dove secondo lui c'era più distanziamento, e sicuramente l'avremmo fatto più di una volta quando ci siamo accorti magari che c'era qualcuno di troppo vicino al megafono, è stato anche ripreso. Dopodiché purtroppo il comune non ci può mettere la faccia nel difendere questa cosa, e quindi alla minima avvisaglia, con la scusa che comunque non siamo un mercato normale, ma siamo un mercato nato in un altro contesto eccetera, ci ha detto insomma Piazza del Carmine la siete giocata. Comunque beh, c'è la prospettiva che se riapriranno parchi e giardini nessuno ci vedrà di andare in Piazza Tasso, ovviamente anche lì con le dovute norme di sicurezza che ci vogliono in questo periodo, bla bla bla bla, nessuno le mette in discussione, però si potrà finalmente rientrare. Dopodiché non sappiamo quando, pare dopo il 4 maggio, ma non ce ne abbiamo la certezza. Abbiamo deciso comunque, dopo aver contattato personalmente il comune, vista la risposta, se fosse giusto comunque dare una nostra versione dei fatti, nostra e non solo, perché comunque alcune persone del quartiere, sia singoli che gruppi di acquisto solidale, anche loro hanno voluto insomma scriverci, e noi abbiamo chiesto poi di pubblicarlo, di farle girare o di mandarle a singolo anche la loro visione, che è un po' più simile alla nostra, magari, ecco, con l'impegno di essere ancora più attenti. Dopodiché è difficilissimo anche perché credo siamo in un periodo, vado avanti a raffica, dico solo questo. Inciso, confrontandomi, che lo sapete, io sono quella che ormai vi propone tutte le persone a tutta Italia per raccontarvi quello che succede anche nelle altre regioni, la nostra PR in un'assemblea sempre online di Genoino Canestino, invece tutto movimento si fa per dire, nel senso, almeno 10 persone che da varie parti d'Italia decidono di mettersi a ragionare. C'era qualcuno che diceva, su Roma ad esempio hanno proposto di riaprire i mercati, ma tutta ed esclusiva la responsabilità pena multa va ai produttori che fanno il mercato, il che insomma probabilmente è un pochino quello che hanno pensato anche qua a Firenze, cioè nel senso, i vigili non ti dicono niente perché non è responsabilità loro, è solo responsabilità tua che stai vendendo e di fare rispettare le norme. Guarda, scusa se interrompo un attimo, ma questo mi sembra proprio che sia in linea con una delle risposte maggiormente utilizzate dal governo per rispondere a questa pandemia, cioè il far ricadere le responsabilità principali sul singolo, e quindi tutta la narrazione del cittadino, dei cittadini cittadini bravi che devono stare per forza in casa, perché l'unico modo per arginare questa pandemia è il distanziamento sociale, quindi chi esce è un potenziale untore. Questa cosa ha intossicato, secondo me, da un mese e mezzo a questa parte, tutto il discorso di analisi che si può fare sulla pandemia. Infatti, fortunatamente stanno piovendo critiche, no? E quello che a me personalmente mi viene da dire, ok, sicuramente le singole persone hanno bisogno della loro dose di responsabilità. Certo, quindi, responsabilità, io sì, vengo... ma non colpevolizzazione. Esatto, ecco, non ci deve essere colpevolizzazione, responsabilità su se stessi, non si può additare gli altri. E poi comunque in una situazione di mercato costruita insieme a un comune con un permesso, le responsabilità mi sembra più che ovvio che debbano essere condivise, nel senso che ci si viene incontro e se i referenti reputano mandano lì anche qualcuno fisso a monitorare, no? Non può essere solo colpa del venditore, anche perché ci può essere solo un venditore, non si possono creare assemblamenti, quindi uno mentre sta vendendo però deve anche controllare che quegli altri due non parlino. Mi sembra sinceramente una richiesta po' così, che sicuramente non porta a nulla di buono e di semplice, quindi ci vorrebbe un po' una collaborazione. Wow, grande ritorno al microfono. Oh, Madonna, anche se in realtà non, cioè, ricordiamolo che non hai mai mollato Radio Contato, in quanto te, il mitico Gringo, che salutiamo di nuovo, ciao Gringo, avete continuato a trasmettere, mitici fra l'altro, che vi siete arrabattati. Esatto, cerchiamo di alternarci con voi oggi, esatto. Anzi, vi ringraziamo per aver preso il nostro posto, ma la nostra vigna urgeva di un trattamento speciale. Yes. Però sì, devo dire, ci siamo sistemati anche un pochino dalla nostra postazione, si chiama Il Castello, non è ovviamente emozionante, bello e vario come essere a Frittole. Frittole comunque ci manca. Però c'è, il castello c'è, grandissimi. I nostri computer quantistici in effetti fanno la differenza, invece... Però ci manca la governante che dà l'aspirapolvere in sottofondo. Beh, quella ci abbiamo come a castello. No, ma... D'altronde... No, c'è, cioè, davvero, è migliorata la qualità del castello, io l'ascolto con molto piacere. Beh, intanto è arrivata finalmente al castello una connessione un po' più regale, però insomma, con i governanti non dipende da noi e quindi non possiamo licenziarli in tronco, insomma siamo soggetti a dei compromessi con la nostra nuova location. Senti Dama, io ti volevo chiedere, quindi a parte ora abbiamo parlato della situazione qui a Firenze, ma un po' le varie anime insomma della comunità come stanno, come se la vivono, che ci puoi dire insomma? Allora, devo dire che le varie anime della comunità stanno in modo diverso ogni anima. La mia percezione insomma, chiacchierando telefonicamente con alcuni di loro, è che comunque qualcuno è veramente provato dalla situazione, cioè tanti sono provati, c'è chi ha una sopportazione maggiore, chi minore, più del cosiddetto distanziamento sociale, del non potersi vedere, riunire, ragionare insieme, lottare insieme, è faticoso. Dopodiché siamo tutti fortunati perché comunque viviamo in campagna, abbiamo una campagna, cioè il lavoro e la gran parte della vita non è drasticamente cambiata, però certo la privazione degli affetti è forte, poi essendo, ripeto, tutti distanti e ovviamente comunque con questa cosa che ognuno deve restare a casa sua, anche fossimo vicini non ci sarebbe modo di aiutarsi, invece la nostra comunità diceva molto il mutuo aiuto e quindi ho bisogno io, aiutami, e arriviamo in un periodo insomma per l'agricoltura e per l'allevamento, per chi produce, mutuo aiuto, la condivisione, insomma sono poi le cose, i veri leganti, no? Assolutamente. Fortunatamente a livello almeno di vendita, finché c'è stato il mercato, tutto sommato le persone hanno avuto il modo di sopravvivere, adesso stanno innescando dei meccanismi diversi tramite i gruppi dell'acquisto solidale, le consegne porta a porta, ma non è, ci siamo detti, la stessa cosa, cioè, anche perché sono tutte cose frugali, manca proprio la condivisione con i membri della comunità e con il resto dei cittadini, cioè tutto questo percorso che si stava creando e stava portando avanti. Però insomma siamo, rispetto ad esempio ad altre regioni d'Italia, in varie fasi siamo stati quasi privilegiati. poi c'è chi questa roba, ripeto, la vive peggio, e quindi magari un po' si sfoga tramite mail, un po' il telefono con qualcun altro. C'è chi la prende un po' più con filosofia, cercando di puntare gli occhi sulle cose positive. Cioè, è vero che comunque, so, io l'altro giorno sono andata a controllare le mie apine e non sono mai state così bene in tutta la loro vita, da quando le seguo io 2 anni e basta, quindi non fa testo, è vero, però cioè le sento, no, che ronzano via delle mini, quelle che gestiamo io e Gringo, insomma. E c'è una natura che sta respirando, che è veramente una cosa importante. C'è un rallentamento, si sta oggettivamente vedendo che comunque certe attività si possono anche arrestare, no? Quindi potrebbero anche ritornare gli scioperi, che ormai erano una cosa, non in questo periodo ma in futuro, una cosa assolutamente, oh mio Dio, non si può fare, perché se qua si chiude anche solo un giorno si muore. Non è vero, ne abbiamo la dimostrazione. Dopodiché c'è da parte di tutta la comunità, e questo posso dire da parte di tutta la comunità, un immenso pensiero nel cercare di trovare delle soluzioni, soprattutto per il futuro, perché al di là del qui ed ora, quindi è importante il comunicato, è importante il mercato, è importante che ognuno possa accedere ai propri orti, no? Perché non era scontato neanche quello prima, se uno non aveva partita IVA, ma soprattutto il futuro, e non solo nostro, perché un contadino o un allevatore non morirà mai di fame, ma di tutta una serie di persone che conosciamo o non conosciamo, che però sono emarginate e che se la stanno passando veramente, veramente, veramente male, e continueranno a passarsela male, perché non è detto che arriveranno al lavoro, non è detto che ci saranno subito delle cose lavorative, i bambini non possono andare a scuola, quindi non socializzano, si nervosiscono, fanno fatica, non hanno una vita regolare, insomma, tutte queste cose a noi preoccupano. Certo, certo, si innesca proprio una degradazione sociale che, insomma, non si sa poi fin dove può arrivare in basso, ecco. Quindi però ecco, noi sentendo, facendo tutti questi giri anche di contatti e di telefonate con le altre reti e i nodi di CC, no, in giro per il bel paese, in realtà io, insomma, da un lato lo sento che un po' tutti comunque hanno una voglia di, chiaramente, di uscirne tutti insieme, di uscirne come collettivo, come comunità, e ci sono un sacco di progetti che reagiscono in modo responsabile, che non stanno in casa, che escono, però chiaramente, appunto, responsabilmente, tutto, però che escono portando, appunto, la solidarietà e continuando a fare un lavoro collettivo per quanto è possibile. Quindi dai, io insomma, io ci credo. Anch'io credo in una vena di positività. Certo, ma ci crediamo tutti, sennò saremmo veramente chiusi in casa. Io credo negli sgami, doctor. Certo, negli sgami. Gli sgami fanno parte. Io credo che comunque, sicuramente, prima eravamo in pochissimi, adesso siamo in un po' di più, ad aprire gli occhi e a ragionare un pochino su come siamo mai strutturati a livello di Stato. Di stato, di bisogni, fra virgolette, che abbiamo, di vizi e di cose. Quindi una riflessione comunque sicuramente maggiore ci sarà, insomma, su quali sono le priorità. E noi sicuramente come comunità e come tutto l'intero movimento di Genuino Clandestino, si diceva l'altro giorno, venerdì scorso, alla riunione, si vuole, insomma, spingere in questa direzione. Quindi forse per la prima volta è stato istituito anche un gruppo di lavoro all'interno del movimento, che forse darà una voce unanime del movimento su quanto sta accadendo, o soprattutto magari su prospettive future, che questo sarebbe interessante. Perfetto. Stiamo a vedere. Grazie. Dai. Io allora mi sa che vi saluto, no, perché te ne devo vai alle tue vignette. Vado alle mie vignette, perché vignette, insomma, vignette, non abbiamo vignette. Tantissime dalle, alle non alle, vigne. Le vignette le faccio stasera disegnando, e adesso vado a potare la vigna, a sistemare tutto lo sfacelo che c'è. Guarda, siamo veramente felici di esserci ribeccati. Grazie. E, insomma, ora poi questa discussione che abbiamo imbastito andrà avanti con i prossimi collegamenti. E dai. Grazie, Dama, anche grazie per il lavoro che fai, e di trovarci così tanti contatti. e di essere una voce così informata che tiene insieme tutto quanto. Vabbè, e voi grazie per trovare anche altri argomenti, perché io sono un po' unidirezionale con voci della comunità. Va bene, un abbraccione a tutti. Che canzone mi mettete? Mettiamo la canzone che ha richiesto ora la Marti, che è Mamma Marias, Bless the Ladies. Mamma Marias. Mamma Marias. È la Grande cota. pronuncia. Grande Marti, grazie. When I listen this tune, my man's free, man. Bless the ladies. There's the mother of the future. Give them to the creator and sing. Bless the ladies. Make what I do. When I listen this tune, you know the messages. Bless the ladies. Me represent the women all over the planet. So me I chant, man. Bless the ladies. Benedette sono le femmine, ci la create, l'uomo non va a sapere, sempre vanno ringraziate. Questa è la regola, il cuscinge lo sape, cazzo un cavenano, le femmine vanno rispettate. Invece quante se ne vedono da me in sale state, minacciate, maltrattate, ingannate, deportate. Dall'uva isi loro pece venono accecate, da la promessa di una patria che ludere le pace. When I listen this to my mom's dream, the mother of the future, give up to the creator. Bless the ladies. Make what I do when I listen to Zoom, you know the messages. Bless the ladies. Never present a women of the black. Soggette penna nano gol, danzo buone schitta muovo cula la denzol, mamma son grande da tenne in guedle pantalon, a chi sa mascara anche vola na lezion, la scusa tu sesso debole, non ha nie bon, na minigone na porto giusta fa calazion, la busa la violenza in città con la luna cu sola, troppa diritta bene na violat, diritta d'essere stessa senza saditat, diritta di na yes condizionate comandat, danno padre padrona cambona la legge tu mascara da casa, femmina menate femmina velat. Capenne loro venne sfregiata, bruciata. Femmina ma non è del turismo sessuale. Femmina meridionale, so come la storia è sempre uguale. When I listen this tune, mi aghi al singo. Bless the ladies. There is no mother of the future, get down to the creator. Bless the ladies. And what I do, when I listen this tune, you know the messages. Bless the ladies. The messages. Now I'm present a women out of the plans, open me a chant, chant. Bless the ladies. In every way and now come the rhythm. This woman wanna see with this son what I think. The message is so clear, you know what I mean. My mama we ask, feel the girl them sing. Bless the ladies, every girl is a miss. Me no wanna see no tears, no pain on my girl face. But if it's a bless the ladies, every girl is a miss. Me no wanna see more frustration and violence for my queens. And I sing, when I listen this tune with me, scream bless the ladies. There's the mother of my life, sing with me tonight, night. Bless the ladies. Listen this tune, you know the message is yes to me. Covers and a wheel and a body pop, pop. So what if we play chomp, chomp? Bless the lady. Grazie, grazie mille Dama per averci aggiornato sulla situazione. E andiamo avanti con questa fantastica rubrica, parlando di Esatto. cosa stanno facendo i contadinacci e i nostri compagni al tempo di questo Come del malaccio. Reagiscono le comunità, come pratiche di resistenza? Parlateci, Assolutamente. condividetele tutti insieme e cerchiamo veramente di uscirne, ne usciremo solo tutti insieme, è sempre così. E proprio per questo, per continuare, siamo al telefono con Andrea da Perugia, ci senti? Eh sì, ci eccolo, sento, eccolo, mi sento. Grande. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao ragazzi, a voi e a tutte le persone che ci ascoltano, che ci stanno ascoltando. Perfetto. Allora, benvenuto, benvenuto. Noi innanzitutto, beh, ti chiediamo di presentarci un po' cosa fai, e prima di tutto tu e poi anche la rete di cui fai parte. Va bene, io sono un produttore, diciamo, come lavoro e come quello che giustifica la mia partecipazione a Terra Fuori Mercato, che è la rete perugina che aderisce al Genuino Clandestino. Sì. Diciamo che sono un produttore di vino e di olio di oliva principalmente, poi ho un piccolo orto per l'autosostentamento, diciamo. Ah, bello, ti dedichi proprio alla base della nostra dieta, dai. Olivo, olivo, vino, olivo e vino, fantastico. Sì, vino, olio, un po' da sempre faccio queste, mi piace fare queste cose. Sì, no, scusa, vai pure avanti. No, in questo periodo, vabbè, periodo che è anche abbastanza lungo, diciamo che sono 20 anni che vivo e opero in un territorio che è una montagna che sta a pochissimi chilometri da Perugia, anche dal centro storico. E diciamo che come storia ho lavorato in questo territorio per 5 anni per un'azienda agricola, biologica, e forestale, altri 5 anni per una cooperativa con lo stesso orientamento, e poi dal 2010 quando la cooperativa ha chiuso per motivi economici, ho iniziato, diciamo, un percorso individuale, chiedendo con un accordo verbale al proprietario dei terreni di continuare a gestire la vigna, la cantina e gli oliveti che comunque ormai da anni gestivo, però soltanto con un accordo verbale, in quanto non ne potevo più della burocrazia, avendo gestito precedentemente una cooperativa. Certo, comprensibilissimo. Ecco. Mi sembra una storia condivisa da tante all'interno della nostra rete. Ecco. E quindi ho iniziato così, cercando di vendere i prodotti. Già lo facevo anche prima, tramite amici, conoscenze, oppure nei bar proprio più vicini, che hanno comunque continuato a prendere anche il vino, anche se non era più, anche se era, diciamo così, clandestino. Sì. E questo, diciamo, e integravo un po' il reddito con lavori di piccola manutenzione del verde, principalmente comunque la gestione di altri oliveti, sia per le potature ma anche poi per la gestione del suolo. Poi nel 2016 ho iniziato a conoscere la realtà di Terra Fuori Mercato e quindi di Genuino Clandestino. E quindi inizio a far parte dell'associazione, partecipando all'assemblea e ai mercati con i miei prodotti. E niente, produco queste cose, diciamo, naturalmente ho bisogno di aiuto, soprattutto per le raccolte. Oh, certo. E questo aiuto viene sia tramite il mutuo aiuto con gli altri produttori di Terra Fuori Mercato, ma anche con amici e conoscenti che mi vengono a aiutare in cambio del prodotto. Ecco, questo è. E questo è quello che faccio, la mia attività, insomma, in grandi linee. Perfetto, perfetto. Senti, quindi dai, insomma, arriviamo un po' a quest'ultimo periodo. No, mi sembra una bella storia, davvero. Poi il discorso è che, come stavamo commentando insieme prima la dama, sembra proprio che il concetto così del mutuo aiuto, della solidarietà, della cooperazione tra le varie entità, produttori, coproduttori, amici vari, davvero non sia per niente contemplata dai nostri cari legislatori, no? Per cui mi dici, io sono da solo, questa esperienza qua mi baso sull'aiuto che mi danno gli altri per le raccolte. Per fortuna non è ancora settembre, insomma. Ah, infatti, infatti, sennò se ne andava tutto male. Diciamo che comunque nella vicinanza, sai, in campagna, qualche strada bianca, qualche situazione, diciamo, furtiva si riesce a realizzare. Sì, qualche sgamo, come dice il reverendo, qualche sgamo qualche si può sgamo fare. Si ma si ecco, quindi... Anch'io ho continuato a lavorare, cioè, diciamo, gli oliveti che gestisco, continuo a gestire anche per conto terzi, ho trovato il modo, seppur in minima parte, perché non dappertutto sono riuscito ad arrivare, però almeno quelli più importanti che seguo da più tempo, diciamo, ho continuato a farli passando per le strade più improbabili. E quindi, insomma, non hai avuto grandi difficoltà ultimamente a svolgere il tuo lavoro, mandare avanti le tue produzioni, il tuo reddito? No, tranne questo no, diciamo anche dal punto di vista del reddito, perché questo è un momento morto, in quanto avrei avuto da vendere il vino, ma quello vecchio è finito, quello nuovo, eccolo, sta per uscire ora, uscirà a metà maggio. Ah, quindi, bello. Quindi diciamo che era contemplato un blocco delle vendite nei mercati, però quello che mi ha un po' bloccato è appunto questa attività di gestione del verde o soprattutto di altri oliveti, perché comunque per me è importante sia per un punto di vista economico ma anche, diciamo, di passione, perché è un lavoro che faccio da tanti anni e so benissimo che se lasci stare per un anno che non passi nell'oliveto, il prossimo anno ci devi lavorare al doppio e comunque gli obiettivi e i risultati non sono gli stessi. Quindi da questo punto di vista ho trovato delle difficoltà. Capisco molto, ma infatti, ma dicevi, la storia del mercato lì da voi, cioè, è stato proprio sospeso completamente e sembra che ci siano delle aperture, sembra, come vi state muovendo? Allora, noi all'inizio è stato bloccato sia per ordinanza, anche del comune, dove abbiamo fatto altre telefonate, ma non era possibile riaprirlo, quindi comunque anche noi, non sapendo come comportarci, perché nel mese di marzo non sapevamo proprio come muoverci, non abbiamo organizzato nulla e abbiamo deciso di non fare il mercato anche autonomamente, però diciamo comunque c'era l'ordinanza che non ci permetteva di farlo. Anzi, questo scusa, per il mese di febbraio. Poi diciamo abbiamo avuto un mese dove tutti quanti siamo stati un po', ci siamo un po', ci siamo, siamo rimasti un po' perplessi, non sapevamo un po' che fare, infatti neanche ci siamo sentiti, perché aspettavamo che succedesse qualcosa e eravamo un po' spaesati. Poi ci siamo risentiti per organizzare l'assemblea mensile di aprile. E a questo punto niente, è nata l'idea di intraprendere una nuova strada, ossia quella di organizzare un gruppo d'acquisto nell'azienda dei nostri orticoltori, Alice e Lorenzo. E perché loro sono possessori di partita IVA e noi pensavamo appunto di poter continuare a fare le nostre vendite in questa maniera. Ah, e ci siete riusciti quindi? Quindi sì, in qualche modo avete concentrato un po', insomma, le vendite, ecco, in questa dimensione. Sì. Niente, abbiamo fatto 2 settimane ad ora di esperienza. Ah. Diciamo che comunque è andata abbastanza bene, perché con le difficoltà degli spostamenti che c'erano per fare gli spostamenti sono venuti comunque 8 coproduttori la prima settimana e 9 la seconda, abbiamo 9 ordini per questa che sarà la seconda settimana. Poco che sia, però abbiamo avuto con sorpresa la sorpresa che in realtà questo gruppo di acquisto si sta trasformando in uno spaccio, che noi tra l'altro avevamo uno spaccio che è dovuto chiuso perché è stato chiuso il nostro spazio sociale di riferimento, che è il Circolo Island, quindi diciamo così, come dire, spontaneamente questo gruppo d'acquisto si è trasformato in uno spaccio, in quanto i ragazzi avevano già dei clienti che venivano a fare la spesa per le loro verdure e trovando anche i nostri gli altri prodotti della rete si sono interessati. Certo, quindi potrebbe essere comunque una bella esperienza che poi probabilmente continuerà, no? Anche... Infatti l'idea è questa, chiaramente sono sorti dei problemi in questo momento perché tutto sta la maggior parte del lavoro sta nelle spalle dei ragazzi che gestiscono l'azienda, l'orto lì, però diciamo noi ci siamo organizzati per far riarrivare i prodotti comunque a loro e quindi comunque sì, sarà abbiamo subito valutato l'altra sera di credere che sia una buona possibilità anche per il futuro. Chiaramente ci sarà la necessità come partecipazione di tutta l'associazione, ma pare una buona idea. Mm-hmm. Diciamo che come modo, che volevo dire, come modo per affrontare la barcamena burocratica, diciamo così, ci siamo così organizzati, insomma, i produttori che hanno partita IVA possono emettere la ricevuta all'associazione che terrà fuori mercato e a sua volta può emettere una ricevuta al socio che acquista senza farci nessun ricavo. No. Lorenzo e Alice da parte loro possono comunque rilasciare lo scontrino fiscale e quindi possono giustificare lo spostamento anche dei non soci per fare la spesa. Poi tra questi prodotti, tra tutti questi prodotti che sono accompagnati comunque da un documento fiscale, spiegando così la situazione ai coproduttori, vengono inseriti anche quei prodotti che non dei non possessori di partita IVA. Certo, devono essere loro consapevoli di questo e quindi magari tenerli nascosti o comunque fare tutto quello che è necessario. Diciamo che sappiamo che tutto questo forse non è sufficiente a giustificare gli spostamenti per fare la spesa neanche per i prodotti più regolari. Ma alcune persone comunque si sono prese consapevolmente il rischio di venire e questi ci fa piacere, e questi sono quelli che poi noi alla fine definiamo i coproduttori veri, cioè quelle persone che sono consapevoli del rischio che corriamo noi e in parte se lo stanno prendendo anche loro. Non male. Ecco, questo è quello che stiamo facendo. E speriamo che nel proseguo, che anche andando avanti, c'è un'altra possibilità di vendita. Ci stiamo lavorando e ne stiamo parlando. Certo, molto interessante, molto interessante. Quindi la vostra rete, ecco, dicevi che si trova una volta al mese come assemblea? Sì, noi ci incontriamo, allora, fino appunto a 6 aprile ci siamo sempre incontrati una volta al mese, poi occasionalmente se avevamo delle situazioni impellenti o comunque volevamo fare dei gruppi di lavoro ci vedevamo anche durante tra un'assemblea e l'altra. Il lunedì è il nostro giorno di riferimento, il primo lunedì del mese noi ci facevamo l'assemblea, però qui dal 6 proprio da questa assemblea che abbiamo fatto chiaramente via computer, via internet con una videoconferenza, ci siamo detti di vederci tutte le settimane e ora vedendoci tutte le settimane vediamo che c'è molto utile anche per fare chiarezza, per arrivare all'assemblea successiva che è quella ordinaria con meno pressione. Certo. Quindi è nata anche l'idea di comunque vederci una volta al mese regolarmente di persona, però magari questo strumento si può utilizzare settimanalmente perché semplifica un po' il lavoro, anche perché noi non siamo molto distanti, sono tante persone che arrivano un po' dislocate in tutta l'Umbria ai produttori, quindi non è possibile richiedere la presenza settimanale. Beh, insomma, è come se desse anche un po' di questa situazione, stesse dando anche un po' una nuova spinta, quindi alla vostra rete, ecco, vi siete dovuti stringere un po' più forti. Diciamo sì, appunto, dopo un primo periodo che mettevamo in discussione tutto, poi alla fine come ci siamo risentiti c'è stata una grande carica energetica che ha fatto nascere nuove cose. È stato molto bello. Bello, bello, grande, guarda, penso sia proprio la cosa migliore che uno possa fare, chiaramente. Del resto c'erano così. Detto che le crisi sono opportunità, quindi bisogna vedere anche questo punto di vista. E sfruttiamole. No, davvero, grazie per la tua testimonianza, mi sembra un contributo molto prezioso, e capire che ci sono comunque modi di muoversi anche in questa situazione, e niente, speriamo, cioè, davvero in bocca al lupo per le tue produzioni, speriamo che presto tu possa ricevere aiuti, ecco. Grazie. Esatto, guarda. Ti ringraziamo davvero e insomma per qualunque cosa, qualunque non so, cosa che una rete o un singolo voglia comunicare, ecco, noi come Radio Contado, ecco, possiamo, ci siamo, ecco, insomma, stiamo facendo anche questo giro di telefonate, di contatti in queste settimane, proprio per rinsaldare proprio a livello italiano, insomma, anche in qualche modo i nodi di Genuino Clandestino e la grande rete in cui tutti lavoriamo e lottiamo, quindi insomma, ti ringraziamo insomma è a risentirci presto, ecco. Un grazie anche a voi, perché comunque a voi per questa occasione che avete dato a me, ma anche a questa trasmissione, perché con il fatto anche che non c'è stato il nazionale, comunque sentire le voci di tutti i produttori d'Italia, perché seguo spesso la vostra, anzi sempre un po' la vostra trasmissione, è un bel, diciamo, è una cosa che continua a dar morale, no? E a farci sentire uniti, quindi esatto, buon esatto. Lavoro. Nel nostro piccolo grazie. Ci proviamo. Grazie. Perfetto. Fa davvero piacere, davvero, sentirlo dire. Va bene, allora buone cose, buon lavoro, buona lotta. Buone cose anche a voi, ciao. Ciao, ciao. A presto. Ciao, a presto. Che fai? Che metti? Radio Contado, l'ascoltano proprio cani e porci. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo. Me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos, los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo. casa ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Ebbene sì. Ebbene sì, ebbene sì. Siete sempre all'ascolto di Radio Wombat. Bella, belle ste basi, reverendo. Eh sì, perché mi garba che tu mandi. Perché arriviamo al giro di boa, 15:51, tra un'oretta, anzi diciamo anche meno, 50 minuti finiamo. Abbiamo iniziato in ritardo, le due ore non ce le toglie nessuno. E continuiamo con calma. Intanto ringraziamo ancora Andrea. E c'è giunto un contributo questa settimana dalle Marche. Esatto. Ci avviamo a sentire appunto questo contributo, che è un po' sostituisce un po' la telefonata che avremmo fatto comunque al nodo di GC delle Marche e Oltremercato, e che però ci hanno inviato loro questo audio. Quindi Oltremercato ha prodotto questo audio che spiega in modo collettivo, con un discorso collettivo, quello che stanno facendo con il gas nomade. Quindi ci arriva questo audio grande, autoprodotto dalla comunità marchigiana. Ci dice come se la stanno portando e vivendo. Secondo me è molto interessante, dura 17 minuti e non starei a inframmezzarvelo con della musica, perché comunque sono varie voci, varie telefonate, e insomma è molto, molto vario e interessante, quindi niente, ci risentiamo tra 17 minuti. Yes. Restate connessi. Il gas nomade è nato... È già un paio d'anni che ci ragioniamo, partecipando sia al gas del territorio sia all'oltremercato, al mercato di Pesaro in particolare, negli ultimi due anni. È nato un po' cercando di creare una sinergia tra queste due realtà e di far muovere i prodotti dei produttori locali in un modo che non fosse troppo dispendioso, sfruttando un po' quelli che già erano gli spostamenti soprattutto dei produttori inizialmente, quindi cercando di aggregare i prodotti sul mercato di Pesaro e poi di distribuirli nei vari gas, facendo in modo che si creasse anche una maggiore conoscenza nei gas di quelli che sono i produttori del territorio, perché alcuni dei produttori sono comuni, ma diversi produttori magari sono conosciuti solo nell'entroterra o viceversa solo dai gas della costa. All'inizio della pandemia ci siamo mobilitati per garantire il servizio di consegna per portare i prodotti sia ai mercati, alle persone del mercato che non avevano più questo servizio, e ai gas dell'entroterra soprattutto, per riuscire a portare i prodotti, visto che i referenti non si potevano muovere con libertà. Allora, diciamo che l'attività del gas nomade parte con gli ordinativi che fanno le persone utilizzando un gestionale, e tutti i produttori seguono l'evolversi degli ordini e quindi possono prepararsi già i prodotti. Quando vengono chiusi gli ordini, ogni produttore prepara il suo prodotto e poi o direttamente il produttore oppure un produttore porta al centro di raccolta i prodotti di altri produttori e nel posto, nel centro di raccolta, vengono preparate le cassette inserendo per ogni cassetta di cliente che ha ordinato i vari prodotti. Si compongono dalle 50 alle 60 ordinazioni, divise, il gestionale già ce le divide per le varie zone di ritiro, quindi non facciamo altro che creare dei blocchi di cassette a seconda di dove devono andare, e dopodiché cercando di ottimizzare i spostamenti, ma adesso appunto è un po' più difficile. C'è chi va a Pesaro a consegnare, chi a Fano, a Urbino, a Cagli, poi c'è la Pstella e altre due consegne lungo il tragitto che sono Calcinelli, forse 6 ore. Sì, io partecipo nel senso che do la farina e le uova adesso, momentaneamente. Prima portavo le cose direttamente al gas, no, a Fossombrunnen, prima che succedesse tutta questa confusione io non avevo problemi di consegnare, insomma, se l'appuntamento era lì, insomma, queste famiglie si davano un punto di ritrovo. In questo caso forse un po' dopo c'è chi c'è la Pergola, chi c'è la Cagli, chi c'è la San Lorenzo. Adesso faccio una mezza consegna, nel senso la porto dalla Michelina o ho l'appuntamento con Antonio a Cartoceto, cioè facciamo un po' dei viaggi a metà, ci veniamo incontro, insomma, ecco. Non vado a consegnare direttamente io. Mi ha semplificato il lavoro, se non c'è il contatto umano, ma il lavoro me l'ha semplificato, insomma, ecco. Ci muoviamo sulle cinquantina di cassette, 50 cassette che sono molto variabili come dimensione, ce ne sono alcuni che fanno proprio spesa totale, che superano i 100 euro, e altri che magari prendono molto poco, 10 euro, 12 euro. E quello che ha fatto decollare, insomma, che funziona molto bene, è il fatto che un gas in toto ha usato questo sistema per fare gli ordini, che è quello di Valdazza, gli altri Cagli lo stesso, e poi i clienti del mercato, pochi in realtà, si sono fatti vivi, perché a Pesaro c'è questa, anche lì c'è un po' di timore, muoversi, incrociare le persone, quindi alcuni sono venuti direttamente come punto di distribuzione nel luogo in cui normalmente facciamo il mercato, che è un posto comune per fermarsi, vengono lì a un orario stabilito che noi diciamo di volta in volta a ritirare la merce. Ma io ancora non cominciavo, ho piantato solo, ho seminato solo le bietole e le spinaci, ma ancora non ho piantato né insalata perché è freddo, la mattina i 5 gradi, inutile che uno corre prima per arrivare prima, che non serve a niente. Usiamo anche le cassette per veicolare delle informazioni, mettiamo nelle cassette dei volantini, che il primo è stato quello di oltre mercato di genuino clandestino, per spiegare alle poche persone che non conoscevano la realtà, insomma, presentarci, sapere che cosa stavano ricevendo e chi eravamo. E poi ci siamo inventati anche, cercando di utilizzare e di veicolare anche la moneta sociale che abbiamo messo in piedi, abbiamo cercato di proporre un sistema di cassette solidali, quindi dare la possibilità alle persone che in questo momento si trovano in difficoltà di ordinare e avere un credito in moneta sociale per poter pagare le cassette. E questo progetto l'abbiamo presentato all'interno delle cassette con dei volantini. I produttori si alternano in base ai loro impegni e una volta a settimana, insomma, si fa questa operazione. Permette a produttori che non riescono a muoversi comunque di consegnare, di vedere il prodotto consegnato, e a tutte le persone che già acquistavano da questi produttori di ricevere i prodotti direttamente in prossimità o direttamente a casa o comunque nei punti di ritiro molto vicini, evitando gli spostamenti. Le difficoltà maggiori per quanto riguarda la parte che curavo io è il fatto che sono zone molto distanti e poco frequentate, diciamo, piccoli numeri. E quindi quello che abbiamo cercato di fare è coinvolgere le persone che venivano raggiunte e donandoci una mano nella distribuzione, coinvolgendola nella staffetta, però ancora non siamo riusciti a farlo per la paura di muoversi, di illudere, magari di uscire dal territorio ammesso, dal comune, dalla distanza massima. E quindi per adesso li abbiamo serviti arrivando fino a loro, anche essendo in realtà veramente due cassette per svalicare la collina e altre due poco più oltre. In giro ci può andare, però per esempio io consegnare a Pesaro e se invece va Antonio, la Giulia o Tommaso, se no io nemmeno ci penso a star lì, cioè siamo in due, o produci le cose e stai lì sul campo o le consegni, tutte e due le cose non si riescono a fare. Almeno io ci ho provato, ma non ci riesco. Insomma, fisicamente sia mia mia moglie, per cui non è, se non fai imbrogli che la roba la produci te, non c'è un'alternativa. Dico appunto inizialmente pensando di far sostare i produttori, però l'idea è anche dopo di superare un po' questa logica per cui deve essere il produttore che viaggia come un matto ad estrema manca, ma che siano anche i coproduttori, chi usufruisce dei prodotti, che partecipa all'organizzazione della distribuzione. Il motivo per cui faccio gli ordini è abbastanza semplice, cioè mantenere un minimo di contatto sociale, perché tanto tutta roba del territorio, e poi soprattutto perché cibo sano, genuino e non della grande distribuzione a cui ero già abituato, e vista la situazione non volevo smettere o perdere, meglio per dire meglio, non volevo perdere l'abitudine. Prima settimanalmente il Gardo Fossombrone, visto però il casino e soprattutto il problema che io non posso andare a Fossombrone, questa cosa è molto comoda perché io rimango nel mio comune e c'è qualcuno che si smazza tutta questa rottura di coglioni da andare in giro a portarci del cibo decente, insomma. Il gasolio in realtà nasce nella sua idea originale, prima dell'emergenza sanitaria, con l'obiettivo, uno degli obiettivi, quello di riuscire a utilizzare all'interno di questo circuito del gas nomade la moneta sociale. Quindi proprio voleva essere all'inizio un modo per promuovere e permettere degli scambi di prodotti in moneta sociale, cosa che all'interno dei gas territoriali è difficile, perché non tutti gli interessa la rete della moneta sociale, né a tutti i gasisti né a tutti i produttori. E invece l'idea era proprio quella di utilizzare questo strumento soprattutto, non solo, ma soprattutto tra persone, produttori o coproduttori interessati al circuito della moneta sociale, insomma. Quindi per dinamizzare un po' questo strumento che esiste, funziona, però per funzionare meglio andrebbe accresciuto, migliorato, usato maggiormente da più persone su un territorio più ampio. Sì, moneta sociale la stiamo usando ormai da oltre 4 anni per come forma di regolamentazione, di stimolo e di sviluppo agli scambi all'interno della rete. Vale per scambiarsi del lavoro collettivo, vale per accedere ai prodotti dei produttori in una forma diversa da quella strettamente dell'euro, quindi aumentando o migliorando il potere di acquisto delle persone, e vale come possibilità di aumentare anche dal punto di vista solidaristico l'interazione all'interno della rete. Un baratto che non è solo un baratto, ma che può essere, in cui lo scambio può essere restituito all'interno tra tante realtà e tante situazioni differenti. Uh-huh. Gli scambi vengono tenuti da un gestionale che funziona ovviamente a somma zero, quindi ogni scambio comporta un andare in positivo o in negativo che si compensano. Quindi ogni scambio arricchisce la rete, sì, perché in realtà tu ottieni un servizio, quindi ci guadagni, dai un servizio, quindi ci guadagni, la rete è rafforzata da questo servizio che viene scambiato. Gli altri aspetti sono in realtà tanti, per esempio anche questa cosa di dare un contributo in ore a chi fa servizio, appunto, quindi chi usa il suo tempo per il gas nomad, è un'altra cosa importante, perché appunto si utilizza di nuovo la moneta sociale per dare un contributo a queste persone che comunque si smazzano un bel po' di lavoro per la rete, insomma, a prescindere da chi sono, anche se fosse la rotazione, chiunque fa quel tipo di servizio in quel determinato momento, il giorno, gli viene riconosciuto, insomma. Quindi da questo poi permette anche, potendo andare in debito, permette anche un accesso al credito a persone che questa cosa non la possono fare, per cui tu ti puoi trovare in un momento di grande difficoltà e avere questa risorsa da poter utilizzare, che poi restituirei tardi. Le cassette solidali sono un esempio, no? Abbiamo impostato questo sistema di cassette solidali che si basa appunto sulla moneta sociale, proprio perché per in qualche modo proporre a chi fa uso di questo servizio di entrare anche nel circuito della moneta sociale, che è uno strumento che può comunque aiutare certe dinamiche tra persone prima di tutto, e poi tra produttori, coproduttori, eccetera. Che non sono semplicemente beneficenza, sono da una parte la possibilità, dare a tutti la possibilità di accedere a del cibo buono anche in un momento di difficoltà, in un'ottica quindi solidaristica, perché chi ha in questo momento un po' di più ha una misura di compensazione e condividere questa sua possibilità a qualcuno in questo momento in difficoltà. Però chiediamo alle persone che sono coinvolte in questa cosa di dare una disponibilità a restituire in un altro momento una parte quello che hanno ricevuto, di restituirla in moneta sociale, quindi non a chi gliel'ha data, ma a una possibilità di un lavoro collettivo dentro la rete, a dare delle risorse alla rete. Questo ci permette di rafforzare la rete in questo momento, perché di tenere dentro la rete e inserire dentro la rete delle persone che in un momento di fragilità magari non potrebbero anche accedere ai prodotti biologici, ai prodotti coltivati con un tasso di sfruttamento basso, eccetera, che di conseguenza costano comunque di più degli altri, e rafforzare la rete dopo, quando avrai delle risorse che in questo momento sono differite, ma che sono importanti perché dopo potranno servire. Un'altra cosa è che molti dei gasisti hanno capito cosa sta dietro il gas nomade, si sono anche abbastanza meravigliati di una struttura in qualche maniera altra che si poneva però a fianco al gas a cui sono abituati, che sono abituati a vedere, in cui sono abituati anche a vedere i produttori che spesso non sono così vicini come il gasista si vorrebbe sentire, ma che si sono messi comunque in questo momento a servizio, a fianco, a supporto al gas, no? E anche il capire che c'è una dimensione, accettare che c'è una dimensione più ampia di quello che è semplice il gas cittadino, in cui però si fa parte effettivamente di una rete. Io penso che questa cosa della rete con il gas nomade si stia sentendo di più, e questo secondo me è una cosa importante. E veramente con il gas nomade e con la moneta sociale stiamo creando questo tessuto connettivo tra vari pezzi che fanno cose simili, spesso in maniera un po' diversa, con sensibilità un po' diverse, quindi spesso sentono molto diverse, ma che in realtà quando le metti in collegamento con questi strumenti si rendono di più conto di fare parte di qualcosa di un pochettino più grande. È chiaro che questo comporta un impegno e una disponibilità, una dimensione collettiva che dipende anche dalla consapevolezza che ci metti.

Allora, va bene, va bene. Noi senti, cambiamo un attimo. No, non cambiamo argomento, perché continuiamo comunque a parlare di pratiche di resistenza, quindi di comunità che resistono, che si organizzano, e modi per non stare in casa, ma anzi per, appunto, come si diceva prima, per uscire in modo chiaramente, vabbè, responsabile e tutto, però per far sì che non si vada veramente, non si caschi nel baratro del distanziamento sociale vero, che sarebbe un gran casino, non si sa dove ci potrebbe portare. E quindi continuiamo questo nostro giro, appunto, di condivisioni, con un'altra telefonata. Pronto? Sì? Eccola, ciao. Eccola, Margherita al telefono. Ciao. Ciao a tutte, tutti e tutto. Perfetto. Benvenuta su Radio Cantato. Allora, non so che ci vuoi dire. Allora, no, insomma, ci senti, scusami, non so mai, no, se... No, vai tranquillo, non ti preoccupare, guarda, siamo nella stessa situazione, vai tranquillo proprio. Allora, ti stiamo chiamando in quanto vogliamo parlare un po' tornare a parlare della situazione fiorentina. Appunto, si diceva che anche a Firenze, per fortuna, c'è gente che non resta in casa e anzi che esce cercando soluzioni collettive al distanziamento sociale. Allora, dai, esatto. Parlaci un attimo, parlaci te, dai, dici tutto. Vai. Allora, no, io faccio parte della rete, del collettivo cittadino Non Una Di Meno, Firenze, che ha delle zorras femministe, che è un altro collettivo che è nato quest'anno. Esatto, circa. Di cui ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, faceva un'altra telefonata con una compagna. Esatto, e sia da una parte che dall'altra, in questa situazione di emergenza comunque globale, ci siamo chieste come riuscire a comunicare, a continuare a tenersi attive, a continuare a creare reti di sorellanza attiva che insomma non si limitino soltanto ad avere un confronto tra di noi, ma anche verso l'esterno. E anche perché riteniamo di estrema importanza portare fuori le nostre pratiche femministe, le nostre pratiche di sorellanza in un momento così difficile per tutte e per tutti, nessuno escluso quasi. È un momento in cui la solidarietà è assolutamente essenziale, mi sembra. Sì. Esatto. E quindi abbiamo deciso, appunto, di creare queste pratiche di sorellanza attiva. Una delle quali è la mensa transfemminista, il progetto di mensa transfemminista che si chiama Pop Walks. Sì. Che è un progetto che è nato da Non Una Di Meno Firenze assieme alla cooperativa e Circolo Arci di Porta al Prato, grazie anche al sostegno della Associazione Corrente Alternata di Zenzero, che è un beer fasting. Uh-huh. E insomma, vabbè, abbiamo creato su questo progetto di mensa nel quale ci occuperemo di distribuire dei pasti caldi a delle soggettività che sono quelle anche più colpite da questa situazione di emergenza. Ci rivolgiamo in particolare a persone trans e workers, che sono anche quelle meno tutelate dagli ammortizzatori sociali, che comunque certo. Sono molto limitati, ecco. E insomma, vabbè, questo progetto nel concreto consiste nel ogni lunedì distribuiremo dei pasti caldi a queste soggettività. E insomma, è un bellissimo momento, abbiamo iniziato questo lunedì qua e siamo molto molto orgogliose e contente. Esatto, è veramente una grande iniziativa, sì. È veramente una... Che altro è una risposta, è una risposta reale, cioè non senza... Sì, è assurdo, infatti, esatto. Per una volta si è riuscito, insomma, tanta roba. Ripartire proprio dal cibo. Esatto. E quindi ecco, è partito da quando? Da una settimana, lunedì scorso? Sì, giusto? Sì, quasi una settimana nemmeno, da questo lunedì. Ma senti, come è avvenuta un po' la creazione di, insomma, è stata un'idea che è venuta nel collettivo di Non Una di Meno? Come siete arrivati a questo concretizzarsi? Allora, diciamo che è da un po' che ci chiedevamo come essere più inclusive. Il femminismo è composto da tante soggettività e spesso ci vediamo anche sempre tra le stesse, no, soggettività. Volevamo riuscire ad essere più aperte, più inclusive, quindi ci siamo chieste per tutto tempo come riuscire ad esserlo. E insomma, adesso è capitata questa occasione, appunto, grazie alla cooperativa CAF soprattutto, e come ho già detto anche a tutte le altre associazioni, e abbiamo deciso di iniziare, insomma, di farlo. È successo molto velocemente, ma insomma siamo molto contenti. Esatto, una risposta molto concreta, perché insomma, come ricordiamo, le risposte, diciamo, del governo, comunque delle istituzioni, non sono, secondo noi, non sono adeguate, nel senso sono roba che va a toccare, diciamo, campi che poi realisticamente non sono di vero supporto, perché è veramente in difficoltà. Per esempio, noi, insomma, vabbè, ora abbiamo parlato molto del campo agricolo, ecco, che è un po' quello di cui noi parliamo principalmente, che è un settore incasinato già di suo, a maggior ragione in questo periodo, dove invece, appunto, è passata un po' l'idea che l'agricoltura sia solo quella della grande distribuzione, mentre l'agricoltura contadina, che è quella che poi realmente in questo paese, ma in tutto il mondo, è la parte principale, no? I contadini sono quelli più diffusi, ecco. L'agricoltura si basa sulle piccole aziende, sui piccoli, anzi neanche aziende, sui piccoli contadini. È un settore che si basa proprio sul mutuo aiuto, su lavori non, cioè lavori sommersi, su lavoretti, e quindi per queste persone, per queste soggettività, come non i bonus dei 600 euro dell'INPS non conta, cioè, no, per certo, dire, certo. Cioè, quindi è interessante, è fondamentale, no, che come avete fatto voi ci sia poi una risposta invece proprio per quelle soggettività che poi più ne risentono. Certo, meno tutelate comunque. Esatto, meno tutelate. Ma senti, come è possibile diciamo, contribuire e aiutarvi, fare qualcosa? Allora, stiamo stiamo ancora cercando di capire bene come muoversi, perché chiaramente la situazione è molto anomala e quindi chiaramente stiamo andando molto lentamente e guardandoci bene intorno, ecco, per essere anche, cioè, perché dobbiamo tutelare proprio le utenze che abbiamo e anche noi stesse, per cui piano piano, e anche tutte quante le altre, chiaramente, persone che ci fanno attorno, per cui ci stiamo andando piano, però se volete essere d'aiuto potete seguire la pagina Non Una di Meno Firenze, dove mettiamo tutti gli aggiornamenti, e diciamo che vorremmo far partire un crowdfunding ma troverete sicuramente tutti i dati del genere sulla nostra pagina, appunto. Non Una di Meno Firenze. Quindi insomma, l'invito anche a chi ci sta ascoltando è quello di restare un po' connessi, innanzitutto con la pagina di Non Una di Meno Firenze. Esatto. Perfetto, senti, so se vuoi aggiungere qualcos'altro su questo argomento della mensa, oppure se vogliamo passare a... possiamo passare anche un altro, cioè non so se volete avere altre delucidazioni del caso, ma per me possiamo passare ad un altro argomento. Vai, visto abbiamo una carrellata di roba di cui parlare anche con te... Io passerei al primo maggio, che è un po', insomma, è un po' l'argomento di cui anche settimana scorsa un po' l'abbiamo accennato. E questo primo maggio, questo sciopero transfemminista di cui abbiamo già un po' parlato, però con te vorremmo parlarne meglio. Abbiamo visto, insomma, che c'è sul sito di Non Uno di Meno, si può scaricare in varie lingue anche il manifesto. Sì, dello sciopero transnazionale. Nello specifico vi racconterò, cioè, perché so che ne ha già parlato appunto anche una mia compagna, che è anche molto dentro di me nel movimento transnazionale in questo momento, per cui, insomma, non voglio, ecco, dirò quello che è uscito ultimamente nello specifico riguardo a questa giornata. Mm-hmm. Se per voi va bene. Certo, allora, è una giornata che, appunto, come dicevi tu, sciopero transnazionale, nel quale ci siamo ritrovate con la rete Non Uno di Meno, che è una rete nazionale. E niente, ci vogliamo semplicemente, è nata dal desiderio di creare una giornata nella quale evidenziare il fatto che questa pandemia ha portato a galla moltissimi dei problemi che c'erano già, ha portato a galla il fatto che il sistema che stiamo vivendo è patriarcale, è un sistema obsoleto che non funziona più, ed è evidente perché non riesce a tutelarci, non riusciva a farlo prima, adesso è ancora, certo, più sono evidenziate ancora di più le, certo, sì sì, capito, e specialmente in particolare le soggettività più forti privilegiate rispetto al maschio bianco etero e cisgender. Diciamo che è un dato abbastanza di fatto, per cui ci vogliamo rivendicare questa giornata, appunto, come femministe. Anche tutta la giornata, no. Ti sentiamo un po' male, scusa, potresti ripetere un attimo che è andata via? Sì, perché qua in campagna il segnale va e viene. No, niente, semplicemente vorremmo... Mi sentite adesso? Sì, sì, sì, sì, molto meglio. Ok. Faremo delle azioni online durante tutta la giornata, sulle nostre pagine web, su Facebook in particolare, sotto la pagina potete trovarci sempre la pagina Non Una di Meno Firenze o Non Una di Meno, che è quella nazionale. Sì. E faremo delle dirette, ci saranno degli hashtag lanciati da lanciare, e poi la sera alle 6 in ogni paese del mondo faremo un ruidasso, si chiama, sarebbe la spentolata per intendersi, è una pratica molto comune in Sud America durante le giornate di manifestazione, ci si affaccia alle finestre e si sbattono i coperti delle pentole, ma faremo questa cosa qua alle 6 di sera in tutto il mondo. Bello, bello, chiaramente anche qui invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a partecipare, quindi venerdì a stare connessi sui social e sul sito di Non Una di Meno, e poi alle 6 fare questo gran casino tutte insieme. E insomma, invito anche, insomma, a dare un'occhiata al manifesto femminista, esatto, transnazionale, che è scritto molto molto bene, secondo me molto chiaro, evidenzia, sì, quelli che sono appunto proprio i veri problemi di questa società patriarcale che non fa altro che opprimere le persone, opprimere l'ambiente, opprimere tutto, cioè, boh. Vabbè, senti, no, e guarda, grazie anche per questo contributo, però no, andiamo ancora avanti. Sì, perché sì. Abbiamo un botto di roba. Con le altre due cose, con l'altro collettivo, non so se vuoi iniziare tu. No, a me non mi riesce, io mi intorto a fare le presentazioni, okay. Quindi vai a ruota libera. Va bene, allora, molto brevemente, con l'altro collettivo che si chiama Le Zarras Femministe, che lì ci siamo interrogate su come riuscire a confrontarci con le persone esterne al nostro collettivo in un momento in cui ci ritroviamo isolate e il confronto è praticamente impossibile, quindi ci siamo interessate molto al discorso del tema dell'amore romantico, no? Mm-hmm. Questa questo mito dell'amore romantico e abbiamo creato questo questionario da compilare che si può trovare sulla nostra pagina Facebook che si chiama Le Zorras Femministe. Ho detto un sacco di volte Facebook, tra l'altro. Ti censureremo in post produzione, tranquilla. Ecco. Metteremo dei beep, però la gente deve sapere e deve andare a cercarvi lì. Esatto. E vabbè, insomma, comunque ci trova questo carinissimo. Andate, cercatelo, lo ripubblicheremo a breve così almeno si trova più facilmente. Esatto. E compilatelo. Brava, io l'ho compilato, è molto secondo me è molto interessante, non è solo, insomma, è una cosa, secondo me è una cosa che può aiutare a scavare un po', perché secondo me, ecco, la questione dell'amore romantico è un po' una sorta di punta dell'iceberg del problema, poi, no? Sì, decisamente. Quindi i congiunti stabili, intendi? Già, capito. La storia dei congiunti, che... Mamma mia, no, che lavoro, peso, come si fa? Certo, io rimango sempre più sorpreso veramente delle minchiate che ogni tanto escano fuori come risposta alle situazioni critiche. A volte dico, ma non c'è mai limite, veramente. No. Cioè, si sono intortati anche questi del governo adesso con sta storia cioè hanno fatto, si sono infilati in un ginepraio, vabbè. Sono proprio vabbè. Guarda, ogni si giorno ride cambia l'idea, tra l'altro, perché sì. Ancora cose si può fare, no? Vabbè, comunque. Se fosse un film sarebbe veramente da ridere, ma non è un film, è la realtà. Magari ne rideremo tra mai, tipo, non so. vediamo. Va bene, teniamo il morale alto. Dai, sì, infatti. Grazie davvero. Finisco. Questo questionario mi interessa. Figurati. Grazie a voi per l'aiuto, anzi, per lo spazio che ci state concedendo. No, volevo dire l'ultima cosa, che secondo me è molto carina e va detta. La prossima settimana noi come Zorras sempre iniziamo ogni assemblea con la ronda emotiva, che è un momento nel quale ci chiediamo come siamo, per capire anche la persona che abbiamo davanti, perché spesso se tipo io sto in premestro magari mi incavolo di più, no? E quindi dicendo come stiamo capiamo anche le reazioni delle altre persone, insomma riusciamo a empatizzare molto di più. E questa cosa ci aiutate tante, anche in questo periodo che è più difficile riuscire comunque a vederci, a parlare, che lo facciamo online chiaramente, è molto importante, ecco, lasciarci questo spazio. Abbiamo deciso di fare una ronda emotiva aperta a tutti e a tutte, online sempre, uscirà l'evento sempre sulla nostra pagina. E niente, vi invito anche a partecipare a quel momento là, perché secondo me in un mondo così difficile, con dei tempi così poco adatti a noi, avere del tempo per essere ascoltate, ascoltati e per parlare, secondo me è molto importante. Per cui niente, vi invitiamo anche a quello. Bello, raccogliamo l'invito e lo rilanciamo, proviamo un po' a essere un po' nel nostro piccolo megafono per rilanciare tutti questi eventi interessanti e importanti di cui ci ha parlato. E grazie mille. Niente, ma che grazie a te, guarda, davvero. E noi dobbiamo chiudere, ci manca poco tempo. Bene, guarda, ci salutiamo allora. Perfetto. Dai. Grazie mille, un abbraccio, saluto tutte le compagne. Alla grande. Grazie. Ciao, a presto. Ciao. Prepariamo per l'ultima telefonata della puntata la nostra cara amica. Ascolta il canto del bidone, tutti i cuori tristi, e in arrivo una canzone per far capire con verbo ad ora ignoto com'è beato chi ancora si sente vuoto. Sono pieno di tu, sono pieno di uomo, sono pieno di roba, se lei che l'uomo, sono pieno di forze, sono pieno di voce, sono pieno di fatti, non più che cadute, sono pieno di pelle, sono pieno di mani, sono pieno di sangue, sono pieno di plastica, di luce patate, sono pieno di. del bidone per tutto ciò che c'è, è la sola soluzione. Apre il portello ma non vuole il tuo sacchetto, solo cantare per sommo tuo diletto. Sono pieno di carta, sono pieno di gomma, sono pieno di sporca su tutta la gamba. Sono pieno di buste, sono pieno di pacchi, sono pieno di fogli. Sono lurido e lento, sono tutto imbrattato, per ora mi riempio di chi mi ha riempito. Ci sarà una manifestazione dove brucia il bidone solamente se è pieno di tante persone. Accendini vuoti! Polvere! Voglio, mi raccomando, tutto in coppa a Radio Wombat, allora un caffè, tutti i mercoledì! Ebbene sì, ritorniamo di nuovo. Dopo questo fantastico contributo... Ci avviamo davvero verso la fine di questa puntata, ma c'è l'ultimo ospite speciale che stiamo provando a raggiungere. Vediamo se i nostri... A chiamare in diretta la Gineprina, che ci manca tanto. Davvero. Che però non ci risponde. Ma come? Bestemmio. Oh, cara, ci sta paccando alla fine. Forse si è stufata di essere relegata alla fine della trasmissione da Gineprina. From my heart, learning to be a friend for the first time. Allora, se eravate curiosi, quelli di prima erano musica per bambini. So long. E questo è un album dei Fat Freddy's Drop. For so long, for so long, for so long, for so long. Nel caso non l'abbiate fatto, nel caso vi siete connessi ora, mandateci una mail radiocontado@insiberia.net. Pronto? Ce l'abbiamo fatta, eccola! Eccola Gineprina, finalmente! Eccoli! Mancavate, eh? Eh sì, era un po' che non ci sentivamo. Era un po'. Sì. Come stai? Io ero molto indaffarata in questi giorni perché ci sono tante cose da prendere nel bosco e allora anche se piove vado un po' in giro tutti i giorni. Grande, altro che te non stai in casa. Fai le giratine. Ma la casa, è una casa da streghetta perché devo stare per forza in un posto isolato. E non si esauriscono mai le cose del bosco? Sono così, ogni giorno sei in giro a raccogliere, lascialo un po' stare. Tante cose, ragazzi, veramente. Vai. Questi giorni ho preso gli ultimi asparagi, poi ho raccolto il biancospino. Il biancospino, questo è il momento adatto, perché va raccolto tra marzo e fine aprile. Quindi tutto il biancospino possibile. Raccogli i fiori, le infiorescenze. Raccolti, seccati e poi ci facciamo delle ottime tisane contro la pressione alta, per stare più tranquilli, come sedativo, per dormire meglio, fanno bene anche contro le tachicardie. Biancospino è la pianta del cuore nella tradizione popolare, quindi è una pianta molto molto importante. E poi ha anche un buon effetto diuretico, quindi le tisane di biancospino sono raccomandabili sempre. Soprattutto se uno tende ad essere un po' agitato come in questo periodo, questo periodo tanta gente è un po' agitata. Ma no, che dici? Beh, c'è chi la prende bene e dice, ora non faccio nulla, mi riposo e sto tranquillo. Allora biancospino non gli serve. Ma chi si comincia a preoccupare perché magari gli viene qualche malattia, qualche influenza, allora forse sarà bene per loro a biancospino. E un'altra pianta buonissima che si può raccogliere in questi giorni sono i fiori del sambuco. Avete immaginato? I fiori del sambuco si può fare innanzitutto un'acqua gradevolissima, mettendo in una brocca due fiori di sambuco con una fettina di limone oppure un rametto di menta. Tiene un'oretta lì e quell'acqua sarà deliziosa, fresca, disputante, e sarà un'acqua aromatizzata al sambuco. Sentite, provate, è molto molto buono. Io ne sapevo una un po' meno sana, io li friggevo i fiori del sambuco. Ah, bravo, certo, anche ieri ho fatto una leccornia. Frittelle di sambuco dolci o salate, come le fai? Tutte le faccio, poi a seconda ci metto il sale e lo zucchero. Bene, non ti fa mancare nulla, va. Ma invece per gli amanti dell'alcol, c'hai una ricetta da consigliare per il sambuchino? Per gli amanti dell'alcol, il sambuchino no. Mi spiace, non ho niente che possa far andare via la voglia di bere alcol. Dovresti saperlo, reverendo, che la ginefrina... questi vizi... La ginefrina mi dispiace, ragazzi. La ginefrina è super sana, super naturale. Ma sì, volevo solo vedere se eri attento. Magari funghi... O il latte di ginefrina. Si possono fare delle ottime ricette anche a casa in questo periodo. In questo periodo in cui la gente si muove poco. Però vi volevo dire un'altra cosa prima di parlare del latte di avena. Che nel bosco ho trovato una piantina mentre cercavo gli asparagi che si chiama buglossa, una borraginacea. Ne avete mai sentito parlare? La buglossa? Buglossidae anche si può dire. Buglossidae purpureo ceruleo, avevo andato a cercarla su un libro. I fiori sono azzurri, molto belle, ed è una pianta abbastanza bassa, al massimo 10-15 cm, ma è detta anche erba perla azzurra, perché il frutto ha la forma di un piccolo seme perlaceo, che rimane sul legno come un piccolo uovo, rimane attaccato su questi rami secchi della buglossa. Quindi bello anche come effetto, anche se è una pianta di menta che normalmente non si nota molto, ma in questo periodo lo dovresti provare perché i fiori sono estremamente azzurri, intensi. Ed è una pianta che si può utilizzare sia come curativa, perché è una pianta emolliente. Ecco, e ci fai? Contiene mucilagini, vitamina C, ed ha anche però un sapore molto delicato, quindi si può scottare, insomma si può lessare brevemente e mangiare le foglie, sono piccoline, un po' durette, però mangiate, scottate, così sono anche accettabili. Ricordiamoci che è della famiglia delle borragenacee, quindi un po' di gusto buono ce l'ha, assomiglia vagamente alla borragine. Con sto fiorellino azzurro, col fiorellino lo posso mettere in insalata e anche sulle torte come decorazione, eh? E questa è un'altra ricetta, mi sento ispirata alle ricette in questo periodo. Per esempio, un'altra cosa che si può fare a colazione, visto che siamo in tempi in cui ci si deve nutrire bene, e conviene essere più vegetariani, ma per essere vegetariani o addirittura vegani, abbiamo bisogno di nutrirsi bene, di avere tutti i sali minerali, le vitamine necessarie, quindi una buona colazione deve cominciare con qualcosa che ha a che fare con la frutta secca. Quindi una bella frutta secca di mandorle o di nocciole o di sesamo, vi assicuro che è l'ideale per una buona colazione. E vi posso dire che è anche molto semplice da preparare. Per ecco esempio, dai, dacci una ricettina al volo. Vuoi la ricetta? Sì. Ah, per le mandorle bastano 200 grammi di mandorle tostate, le potete mettere in forno in una teglia larga, diciamo a 150 gradi per 10 minuti. E poi si mette in un mixer con 6 cucchiai di olio di mais o di girasole, eccetera. E si trita. Prima si trita senza olio, poi piano piano si aggiunge l'olio e si crea un'ottima crema che si può spalmare sul pane e mangiare insieme magari ad una marmellata fatta in casa. Bella, una bomba spettacolo, sì. Una bomba energetica, soprattutto per chi lavora sulla terra, ci vuole, ragazzi. Un'altra crema che si può fare è quella con le nocciole. Anche queste si possono tostare più o meno. Stesso procedimento? Sì, più o meno. Il procedimento è quello. Si tostano 10 minuti, 150 gradi, 160 al massimo, in forno. E dopo si tritano ben bene. Si può aggiungere questi oli o di mais o di girasole. E se volete fare una cosa proprio buona, leccornosa, ci aggiungete anche del cacao e un pochino di zucchero e viene una sorta di crema naturale che ricorda quella cosa, insomma, che conoscete bene voi da bambini, pura, palmabile. Vabbè, no, non nominiamola. Non nominiamola, poi noi non penso la conosciamo, noi conosciamo solo i tarocchi, quelle cose finte. meglio così, non nominiamola e non consumiamola. Ecco. Però va bene, esatto, ci hai parlato di un buon... Con queste creme sono il tahin, che è fatto con i semi del sesamo, quindi anche voi potete prenderli, tostarli, potete tostare anche su un pergamino, appunto un 10 minuti, girando sempre col mestolino, un pizzico di sale, e poi li mettete in un mixer, e questi si tritano con... 5 cucchiai di olio di sesamo, meglio tutti, o di girasole, e viene l'ottima crema tahin che poi la utilizza anche per fare una mousse di ceci, per aggiungere a tanti piatti come il riso o altro. Sì, sì, molto veramente saporita ed energetica. E poi la sua morte è mescolarla col miele. Fantastico. Ebbene, alla fine vi dirò la ricetta del latte di mandorle, che se ne ha parlato all'inizio. Quindi, 100 grammi di mandorle, un litro di acqua, un litro e mezzo anzi. Un litro e mezzo. E si trita tutto insieme, sempre nel solito mixer. Poi va filtrato, quindi da una parte rimane quello liquido che assomiglia al latte, chiaro, nutriente, e dall'altra rimane una sorta di bottiglia che uno potrebbe poi riutilizzare per mettere in qualche biscotto o in qualche torta, oppure se la può mangiare anche a cucchiaini così. Se la stessa cosa per esempio viene fatta con i fiocchi di avena, cioè il latte di avena, e qui ne basta 50 grammi per un litro di acqua, lo stesso procedimento, si mescola nel mixer e poi si filtra. Quello che resta può essere benissimo utilizzato per fare il porridge, il classico porridge degli inglesi, che è una delle poche cose sane che hanno fatto nella cucina e che è veramente utile, però molto valido anche per l'intestino, per dare energia al mattino e devo dire anche gradevole, eh? Quindi cotto con magari cuvetta, un pizzico di sale e poi a piacimento uno può aggiungere un po' dell'ottimo miele che fate voi, bene? Guarda, molto molto interessante, poi soprattutto sono cose appunto uno si può fare in casa e risparmiare anche, in quanto questi prodotti, se uno li va a prendere in giro nelle botteghe o insomma costano un bel po', quindi meglio autoprodurre il più possibile, sempre così la produzione. Questo tempo che ci costringe a stare di più in casa. Sì, ora in realtà abbiamo parlato finora di per fortuna tutte quelle realtà in cui la gente non sta in casa, ma esce per continuare, o nel caso appunto dei lavori agricoli, chiaramente continua a farli, a svolgere, si continuano a fare, oppure quelle persone che decidono di impegnarsi per creare situazioni solidaristiche verso chi sta peggio in questo periodo e quindi continuare a creare comunità per uscirne tutti insieme e migliorare l'esistente. Quindi niente, dobbiamo concludere, Gineprina. Abbiamo ben sforato il nostro orario e quindi dai, ci risentiamo presto, pronta, e passatela bene, dai, nel tuo boschetto. Nel mio piccolo bunker tra i boschi, sto proprio bene. Certo. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio a voi, a presto. Ciao. Ah, Gineprina, ragazzi, incredibile. E chi la smette? Comunque, siamo arrivati alla fine, reverendo. Bella puntata, a me mi piace sentire queste cose. Cioè, anche le ricette, ma mi riferivo anche al resto della puntata. Bene, sono molto contento, Doctor. Mi fa piacere che ormai abbiamo questo feeling che ci fa arrivare alle 4:50 come se niente fosse. Le puntate si fanno da sole ormai. Scivola tutto, scivolano questi contatti, queste relazioni, queste condivisioni, queste costruzioni, questa costruzione collettiva del nostro futuro. E restate appiccicati a Radio Wombat, che continua la sua programmazione molto breve. Noi ci risentite Radio Contado il venerdì alle 14:30 e sabato alle 21, insomma questo è il nuovo palinsesto delle repliche. Se vi siete sintonizzati solo ora e volete sentire il resto, insomma, ci trovate comunque sul blog, quindi wombat.noblogs.org. Per qualunque cosa durante la settimana, durante le dirette, ci scrivete a radiocontado@insiberia.net. E per il resto speriamo di vederci a breve, mamma mia, questi mercati riaprono. Ricordiamo però effettivamente che il mercato di Pontassieve è aperto. E Dio buono! Noi siamo qui a lamentarci che a Firenze, è vero, purtroppo hanno chiuso il mercato, ma a Pontassieve, sappiatelo, il mercato c'è ancora il giovedì pomeriggio. E ormai non li chiamiamo neanche più perché... Esatto. Settimana prossima li chiamiamo subito. Comunque al mercato a Pontassieve, Val di Sieve in transizione, c'è. E dai, noi vi ricordiamo questi, gli appuntamenti, l'appuntamento per venerdì, che è il 1° maggio, appunto, lo sciopero transnazionale femminista. E andate sul sito di Non Una Di Meno, dove c'è il manifesto e c'è scritto tutto il resto, e alle 18 di venerdì ricordatevi di spalancare le finestre e fare un gran bordello. E poi sempre sul sito di Non Una Di Meno, come avete sentito, potete informarvi anche sul nuovo progetto della mensa di solidarietà. E dai, grandi, vai, finiamo con questi saluti, facciamo l'ultimo minestrone. Intanto ci sentiamo venerdì per le dirette speciali qua da Frittole. Comunque ricordiamo che su Wombat ogni sera c'è una direttona incredibile. E niente, salutiamo tutti i nostri amici e amiche sparsi per il globo, soprattutto la Grebana che ci manda questa canzone, soprattutto il Camicia, Carmine, vabbè, Dama e Gringo, Ruvido, Grigio, ci mancate da morire, la Modesta, mamma mia. Dai, che Mulo. Prima o poi riuniremo la banda. Davvero, davvero. Basta, vogliamo solo distanziamento fisico. No, ma non è vero neanche quello. Vogliamo arrotolarci negli abbracci in un gruzzolo gigante tutti insieme. Allora, mercoledì prossimo restate su Radio Wombat, ne vale la pena. Del complesso del 1° maggio, che in genere si esibisce sotto il sole di pomeriggio, con la chitarra acustica scordata calante, che la gente che balla a torso nudo neanche la sente. Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metal meccanico che brandisce una biella, corre quella con piercing che non è tanto bella. Complesso del 1° maggio, lui complesso del 1° maggio, ti va riconosciuto una certa dose di coraggio. Complesso del 1° maggio, lui complesso del 1° maggio, che quando ti sento sento che mi sento a disagio. E all'improvviso parte una canzone tipo Brindisi. Carica ci ha rotto i coglioni, è bella in tutto quanto ma la lunga rompe i coglioni. Certo ne avrei senz'altro tutta un'altra opinione, se fossi un balcanico, se fossi un balcone, ma siccome non sono croato, è un balcone balcano. Io non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a suonare questa musica di merda. Di cantare una canzone balcanosa, ricordati di fare una cosa: lanciare un'inventiva ai danni del capitalismo. Allora noi vogliamo dedicare questa canzone contro il capitalismo. Bisogna dire basta col lavoro che sfrutta tutti. Devono capire che hanno rotto le palle i padroni, perché le masse operaie trovano bisogno. Fatevi sentire, siete tantissimi. Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che dal meccanico che brandisce una biella, corre quella con tissi che non è tanto bella. Complesso del 1° maggio che ci stanno e cantanti, e tutti e due vorrebbero essere l'unico là davanti. Non mi riferisco per forza ai linea 77, ma i linea 77 sono un ottimo esempio. E all'improvviso parte una canzone tipo linea 77. Canto io! Arriva il complesso che valorizza il territorio, impara quattro accordi, ci costruisce un repertorio, e senza motivo c'è un percussionista afghanese che è stato ricollocato in un complesso pugliese. E all'improvviso parte una canzone tipo Bandestro. far l'amore con tre cassa integrati sul comò. Ma il padron fa la frittata che ne da mica cassa integrata. Dalle belle braghe bianche alla fine le palanche non gli dà. Ma prima di cantare una canzone Van de Sfrosa, ricordati di dire una cosa. Il primo maggio è fatto di gioia, ma anche di noia. Mezzogiorno, lupo presso il mezzogiorno, vedrai che il primo maggio suoni intorno a mezzogiorno, con questo tipo Bregovic, con questo tipo Bregovic, vedrai che il primo maggio suoni intorno al primo pomeriggio, con questo con due cantanti di ogni 77, cantate uno una volta che nessuno ci rimette, con questo del territorio, lupo presso del territorio, imparate quattro accordi che la doppia il repertorio. Compresi nel primo maggio più importanti, tipo dei Gramaro e Giovanotti, sappiate che voi siete i pesci grossi e prima si esibiscono gli avannotti.